un potere magico o che sono un eterno rompiscatole per la puntualità e per apprezzare chi è più mattiniero? Più mattiniera in questo caso Carlotta Calarese, che per me non è neanche andata a letto. Buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutte, buongiorno William. No, sono andata a letto, dai. Ho imparato ad essere puntuale. Quindi sono un rompiscatole. No. Non ho poteri magici, ho la capacità di mandare in bestia pur di avere persone puntuali qua in diretta per il Breakfast Club. E beh, del resto oggi è una puntata molto ricca, vero Carlotta? Sì, tantissimo, soprattutto per i contenuti e per l'importanza dei contenuti, ecco. Sì, abbiamo due anticipazioni di presentazione letteraria, una per quanto riguarda nella seconda parte con Paola Saoncella la Biblion, ma partiamo subito con chi sarà protagonista, che libreria di via Irnerio. Abbiamo parlato nella lettura delle prime pagine di Desaparecidos, abbiamo fatto il parallelismo con quello che sta succedendo. Quello che sta succedendo deve essere assolutamente ricordato e sottolineato, grazie alla memoria, ma purtroppo con quello che è capitato molte volte il revisionismo la fa da padrone, lo vediamo tutti i giorni. Quindi, per non dimenticare, con una ricerca di memoria, con un'attenzione, con una ricerca storica, e soprattutto avremo un protagonista di tutto ciò. Sì, che è Daniel Tarnopolsky, sì. Che è appunto questo uomo che ha scritto un libro autobiografico dove racconta la sua vita, soprattutto la storia della sua famiglia, che appunto ha vissuto durante la guerra sporca in Argentina, e lui ha perso tutta la famiglia, sì. Perché madre, padre, fratello, all'inizio no, perché era con i militari, ma anche, sì, la sorella, hanno fatto parte appunto del gruppo dei Desaparecidos, quindi... sì, di questo gruppo che praticamente è stato protagonista di uno sterminio, una generazione che viene annullata, una generazione progressista che viene sterminata. La guerra Sucia dal 1976, così chiamata, la guerra sporca. La storia dell'Argentina è quanto mai complicata e intricata. Avere un protagonista qua con noi, autore del libro Bettina Sina Parcer, la storia intima del caso Tarnopolsky, argentino di origine ebraica, ci porterà a conoscere veramente con la voce del protagonista quello che è capitato, quello che è successo in una singola famiglia annullata. Lui, grazie alla forza di volontà, grazie anche alla capacità spirituale di saper entrare in questa tragedia, è riuscito a portare avanti delle ricerche contro l'omertà, contro il muro di gomma, contro tutto quello che è una lotta per mantenere segreta la verità. Lui è ancora più forte, sta continuando a viaggiare per l'Europa per conoscere il destino di questi ragazzi che purtroppo giovanissimi sono stati falciati, annullati dalla dittatura militare argentina. Tutto questo però grazie a una piccola casa editrice. Esatto, ovvero Kudu Libreria, che in realtà ha un programma editoriale indipendente, e soprattutto si è l'obiettivo di questa editoria è proprio l'impegno sociale, quindi portare soprattutto libri, romanzi, autobiografie incentrati proprio a livello sociale, politico, ed è appunto indipendente. Tra l'altro, nella pagina, nel sito web di questa editoria c'è una foto in cui c'è scritto che comprare un libro oggi è un gesto rivoluzionario, quindi dobbiamo sostenere l'editoria indipendente. Facciamo i rivoluzionari fino alla fine. Certo, e questo è anche un gesto di rivoluzione pacifico, perché la cultura è l'arma pacifica che può portare avanti la ribellione costruttiva e progressista. Quindi, prima parte di intervista, poi ascolteremo la voce di Daniel Tarnopolsky, autore di Bettina Sina Parcer. Parleremo anche di una storia travagliata, quella dell'Argentina, insieme a Daniel. Ma per iniziare sentiamo la voce dell'editor di questa Kudu Libri, che è nella persona di Simone Cuva. Simone Cuva di Kudu Libri, che si occupa di all'interno della casa editrice. Sono il direttore commerciale, mi occupo più che altro di tutto quello che riguarda la contrattualistica e la distribuzione. Linea editoriale? Allora, la linea editoriale è abbastanza particolare, nel senso che è una casa editrice generalista, non è una casa editrice che ha una linea editoriale precisa. Ci occupiamo di editoria per bambini e ragazzi, soprattutto di diritti umani, abbiamo un paio di collane importanti di poesia con degli autori abbastanza conosciuti, dei cataloghi d'arte, e abbiamo iniziato da poco una collana di antropologia narrativa o letteratura documentale, che dir si voglia, quindi sempre diciamo così a che fare con questioni di recupero della memoria, cercando però trasversalmente di affrontare anche il genere letterario della narrativa, che è molto difficile affrontarlo tout court, ecco. Vi definite, se così posso dire, militanti e responsabili dell'editoria, quindi vorremmo sapere un po' questo impegno sociale. Allora, Cudu Libri si definisce una casa editrice militante della memoria perché al suo interno ha queste pubblicazioni relative al tema dei diritti umani, alla questione dei diritti umani e soprattutto al tema dei desaparecidos. Lavoriamo e siamo responsabili editoriali di un'associazione che si chiama 24 Marzo Onlus, che si occupa esclusivamente di queste questioni e cerchiamo quindi di diffondere la tematica dei drammi che si sono succeduti durante le ultime dittature, l'ultima dittatura civico-militare argentina a metà tra gli anni 70, tra la seconda metà degli anni 70 e i primi anni 80, cercando di divulgarlo, facendo delle operazioni anche con le scuole e cercando di pubblicare, diciamo così, la mole documentale che in tutti questi anni di collaborazione abbiamo raccolto. Chi collabora in redazione con te? Collabora mia moglie, che è Patrizia Dughero. Dopodiché abbiamo una grafica che lavora per noi. Questo volume che state per ora presentando e di cui parleremo appunto fra poco è quindi inserito in questo contesto di Desaparecidos? Esattamente, è la novità editoriale di questa collana, si intitola Bettina Sin Aparecer ed è la storia della famiglia Tarnopolsky. Il 15 luglio del 76 la famiglia di Daniel Tarnopolsky è stata completamente sequestrata e in questo volume, che è scritto in tre voci, una voce lionarrante, che è quello dell'autore, la voce di sua nonna, che è l'unica superstite insieme a lui della famiglia, e la voce poetica e a tratti immaginata di sua sorella, Bettina affronta la sua vicenda trasversalmente, quindi da un lato, diciamo così, descrivendo la situazione politica e sociale di quegli anni, il suo esilio, dall'altro affrontandone diciamo così gli aspetti più intimi. Ascoltando è la voce di Juan Domingo Perón, 1946-1955, il primo governo peronista. I suoi sostenitori, descamichados, operai, classe operaia, operaie soprattutto, scamiciati in quanto proprio derivato da una classe, è un ceto medio e basso. Movimento sincretico il peronismo, un movimento nazionalista, un movimento socialista, patriottico, ammiratore della famosa famosa terza via economica che era propria del fascismo italiano. Rigettava totalmente la lotta di classe, ma prevedeva una collaborazione tra le diverse classi sociali, una distribuzione equa del reddito attraverso questa collaborazione, una socialdemocrazia equa, tutto ciò in nome del progresso argentino per una vita mejor per il nostro pueblo, dice Domingo Peroni in questo brano dei Gotham Project. Rinnega gli Stati Uniti d'America, assolutamente, rinnega l'imperialismo, rinnega anche la lotta di classe tipica del marxismo dell'Unione Sovietica, rompe con la Chiesa in uno Stato cattolico come l'Argentina, grazie anche a Eva Perón le donne avranno un'importanza straordinaria per l'autodeterminazione del proprio corpo, e renderà legale l'aborto, pensate un po', beh, tutta questa indipendenza e questo isolazionismo si paga e come. Eva Perón sarà a sostegno delle forze sindacali, Eva Perón sarà di fianco alle operaie, andrà a lavorare in fabbrica, farà così da figura dominante per quanto riguarda una liberazione e contro tutto quello che può essere a favore, scusate, per la lotta di genere. Nel 1955 un colpo di Stato da parte della Marina Militare porterà la fine del primo governo peronista. Questo porterà una divisione all'interno dello stesso movimento, nascerà un movimento più di sinistra, il socialismo peronista, e quell'altro più conservatore. Chiaramente l'Argentina si ritroverà spaccata e in situazioni di guerra civile per questa scissione, per questa divisione, e nel 1967 il movimento comunista peronista, la sinistra legata a Perón, andrà nel movimento OLAS, organizzazione latinoamericana di solidarietà, cioè tutti i movimenti progressisti dell'America Latina si uniranno proprio contro il liberismo e criticando molto forte il loro vicino scomodo, cioè gli Stati Uniti d'America. Questo movimento, anche in virtù della rivoluzione cubana, diventerà sempre più forte, la pagheranno caro purtroppo, perché gli Stati Uniti con il governo Nixon, con Kissinger e con l'operazione Condor manderanno in stati come Argentina, Cile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Honduras la famosa operazione Condor, la famosa guerra sucia, la famosa guerra sporca, quello che porterà migliaia e migliaia di vittime, soprattutto tra i giovani. Scusa per questo pistolotto storico del passato, però insomma la storia dell'Argentina bisogna contestualizzare, per forza, sì. Ma è sempre stata travagliata, anche sì, dopo la morte appunto di Perón, che viene appunto sostituito dalla moglie, Isabel Martínez de Perón, che nomina come segretario di Stato José López Rega, che poi invece insieme ad altri farà il colpo di Stato nel 1976, sì, insieme, quindi la giunta militare inizia ad avere la massima autorità e da là appunto parte la guerra sporca e uno sterminio di massa. Certo, e i voli della morte. Sì, i voli della morte, sì, ma torture, è stato tutto molto illegale purtroppo. E violento e cruento. E violento. In queste parti di intervista ne abbiamo tre al protagonista e autore di questo libro. Troveremo un caso di una famiglia che scompare, la ricerca, la speranza, la spiritualità, le emozioni, una storia di lacrime e sangue, come vi ho già detto in precedenza. Quindi sentiamo la voce di Daniel Tarnopolsky, autore di Bettina sin Aparecer, che ci racconterà un pochettino quello che è capitato dagli inizi. I miei genitori erano del Partito Comunista. Il Partito Comunista in Argentina è piccolo, è stato piccolo come in Italia, però alla sua giovanezza erano del Partito Comunista. Allora per noi eravamo una famiglia socialista, diciamo così. Però mio fratello ha cominciato a militare nella gioventù peronista, 74-75, mio fratello era più grande che me, lui è nato in 55 e nell'anno 76 ha dovuto cominciare il suo servizio militare obbligatorio, lui aveva 21 anni, però era già sposato con la sua moglie Laura e lui è stato inviato alla scuola di meccanica dell'armada prima del coup d'état. Il coup d'état è stato il 24 marzo 76, però lui era già militante e ha cominciato a vedere tutto che arrivava in questa scuola di meccanica dell'armada, ha cominciato a vedere come il campo di concentrazione cominciava a grandire, perché anche se tutta la repressione era clandestina, la gente sapeva più o meno cosa chi cominciava a succedere. Allora lui cominciava a sentire veramente male, perché era lui dentro la stessa scuola di meccanica dell'armata dove era il campo di concentrazione. Era una situazione impossibile per lui e hanno cominciato a vedere con i suoi compagni come fare, che cosa facere in questa situazione. E lui ha deciso con il suo compagno e il suo capi, penso così, il suo capi della militanza, di mettere una bomba nella scuola di meccanica dell'armata. Però è stato scoperto e è stato sequestrato e come segno di ritorsioni il suo capo, il Tigre Acosta, ha deciso di prendere tutta la famiglia. Io non ero a casa in questa sera, dal 14 al 15 giugno 76, perché già un mese prima una cugina di mio padre aveva stato sequestrata, anche lei era della gioventù peronista. Allora in questo momento mio padre mi ha detto di partire da casa, perché abbiamo cominciato a avere paura. Altre realtà del Sud America, l'Argentina alla fine degli anni 60 si ritrova in una confusione, si ritrova all'interno di movimenti progressisti che vanno sempre più delineandosi come in tutto il resto del mondo. Gli scomodi vicini Stati Uniti d'America trovano una minaccia in questo, soprattutto per la forza anche di unione tra tutti questi movimenti in nome del guevarismo con la rivoluzione cubana che era appena stata protagonista. Il movimento peronista, che ha un'ampia parte socialista, come abbiamo detto nella prima parte dell'intervista, con la gioventù peronista si organizza, ovviamente c'è una lotta intestina e chiaramente si inizia a pensare a una repressione che prenderà uno sfogo, poi una deriva estremamente cruenta anche con l'operazione Condor, anzi soprattutto con l'operazione Condor. Videla, i voli della morte, la squadraccia della morte, la sparizione di famiglia, la sparizione e la, diciamo così, l'accanimento contro i più giovani, l'accanimento contro le generazioni più giovani, una generazione sterminata per quanto riguarda gli anni 70 in Argentina. 24 marzo 1976, l'inizio della guerra sucia, della guerra sporca, e come abbiamo ascoltato dalla voce di Daniel, i due mesi dopo iniziano le sparizioni anche in casa sua. Però in realtà anche durante il governo costituzionale già c'erano state almeno 500 sparizioni, cioè anche durante il governo di Isabella Perón. Sì, perché c'erano, cioè, poi sono aumentate ovviamente dopo il colpo di Stato ed è iniziato uno sterminio assolutamente brutale, però erano già cominciate un po' prima. Certo, era un sistema terroristico, sì, perché all'interno dell'Argentina c'era una confusione più totale. Sì, sì, ma l'obiettivo era quello di eliminare tutte le persone rivoluzionarie, sovversive, studenti, ma anche soltanto che simpatizzavano, cioè, certo, non per forza attivisti. No, no, infatti arrestavano, pensa ai parenti, sì, per dire questa, no, ma cosa torture micidiali, agghiacciante. Sì. E pensa che Perón in un'intervista, una delle ultime, probabilmente questo uomo fortissimo che intuisce, come ha intuito, scusa il gioco di parole, Tito nella ex Jugoslavia, che ha messo insieme diverse realtà sotto una forza importante. Lui stesso stesso quando gli chiederanno: ma l'Argentina di base che è così diversa, che è così sofferente, che orientamento ha? Lui risponde: 30% comunisti, 30% conservatori, 30% radicali. Sì, va bene, ma scusi, il suo movimento, i peronisti, fa no, i peronisti tutti. Quindi sì, pensa alla forza che lui aveva proprio di essere convinto di poter, e ce l'ha fatta per un sì, periodo, però chiaramente il progetto è, non dico a livello di utopia, ma quasi. Nella seconda parte troviamo, con la voce di Daniel Tarnopolsky, come è iniziata la ricerca, cos'è capitato nello specifico e soprattutto come sono iniziate le ricerche di questi vicini scomparsi. Beh, io avevo 18 anni, allora io non è stato sequestrato, però quando io ho saputo di questa situazione, il giorno dopo, io mi sono clandestinizzato. Dopo un mese sono partito d'Argentina. E hai cominciato a fare ricerca sul tuo passato? Immagini, sono andato prima in Cile perché avevano la famiglia in Cile, però era una situazione complicatissima perché in Cile con Pinochet non era possibile d'essere, e perché il Planton Condor cominciava a costituirci. Certo. E allora mi siamo inviati, come siamo una famiglia ebrea, e mi hanno mandato Israele. Sono rimasto in Israele un anno e dopo sono andato in Francia, dove ce n'avete la famiglia cilena in esilio, giustamente. E ho cominciato a cercare con tutti gli altri parenti di dispariti, dei desaparecidos, con gli altri esiliati, abbiamo cominciato a fare tutta la politica come si poteva, però immagini, io avevo 19 anni, 20 anni, era veramente complicatissimo per me. Beh, ho cominciato a comprendere cosa era la desaparición in Israele, perché ho conosciuto delle giovani che avevano già stato spariti e dopo liberati. Allora loro mi hanno detto che era veramente, non era un'organizzazione perfetta, e che si vivevi o non vivevi dipendia un poco di cosa che volete il capo del campo dove tu eri, dove tu eri. Era una situazione veramente dell'inferno. E ho capito che, ho cominciato a capire che magari non potrei mai vedere i miei genitori, i miei fratelli o sorella, quando avevo in Israele a 19 anni. E in Francia, pochi anni dopo, ho conosciuto delle donne, degli argentini, delle donne argentine che erano già state anche nella scuola di meccanica dell'armata e liberati dopo, e mi hanno detto lo stesso. Mi hanno detto che i miei genitori e tutta la mia famiglia aveva stata prigioniera nella ESMA, però che dopo nessuno sapeva dove erano stati inviati. Perché i voli della morte, le voli della morte non si conoscevano a questa epoca. Io ti parlo di 81. Non si sapeva ancora, questa era questa storia dei voli della morte. Ancora i brividi, veramente. Ogni tanto mi dico di essere veramente fortunata ad essere nata in questo periodo storico e nel nostro paese, ogni tanto. Comunque la cosa che più mi chiedo io è che è il mio dilemma in questo momento, cioè com'è che l'essere umano, nonostante la storia insegna, ripete gli stessi errori. Cioè eravamo appena usciti dalla seconda guerra mondiale, no? Che ovviamente contesto totalmente diverso, ragioni totalmente differenti, però alla fine è sempre stato uno sterminio, con le stesse torture, la stessa violenza brutale. Quindi non capisco perché l'uomo possa arrivare a fare tanta violenza e a ripeterla negli anni. Perché la pancia del mostro è sempre gravida, purtroppo. Questo è quanto dalla testimonianza di Daniel Tarlopolsky, che porta anche speranza, grazie alla memoria, grazie alla ricerca e al voler conoscere la verità. Verità che è sempre stata occultata, oppure che arriva sempre in ritardo. Lui stesso nell'ultima parte di intervista ha detto nell'81-82 poi è venuta fuori la verità. E ancora non si sapeva effettivamente. Non si sapeva ancora. Per esempio i voli della morte. Esatto. Che è un po', se vogliamo, dovuto a un'informazione assolutamente soggiogata, deviata, perché quello che accade veramente per la mente che va a senso unico è quello che ti fanno vedere o quello che ti fanno leggere i giornali o quello che ti fa vedere la televisione, mentre invece queste realtà, che come ho detto in precedenza sono il più delle volte dominate e guidate dai poteri forti, ti fanno vedere quello che gli pare a loro, eh. Quindi una ricerca come sta portando avanti Daniel, certo, pensare di poter ritrovare in un contesto del genere i propri cari è veramente una cosa in cui ci vuole una spiritualità e una fede, una forza forte, pure anche. Ma forte, assolutamente. Ma la sua ricerca e questa forza è per non dimenticare, è per raccontare questo e per fare una ricerca della verità, che sì, probabilmente è anche per insegnare, in teoria è una speranza, esattamente, per poter insegnare. Abbiamo l'appuntamento, sì, ricordo la presentazione venerdì 9 alle 18 la libreria Ubic, che si trova in via Ernerio 27. E noi ci congediamo con Daniel, che appunto ci ricorda dell'importanza, soprattutto per i più giovani, di ricercare la verità. Però quando tu sei giovane, tu hai bisogno di sapere cosa che è successo con la tua famiglia, e tu cerchi come tu puoi cercare. E io ho sempre avuto una vivenza mistica della vita, anche quando era piccolo. E adesso io ho cominciato a cercare anche con i vicenti qui in Italia, in Brasile, in Francia, in Argentina, e mi hanno detto tante cose, però poco a poco ho cominciato a ricostruire una storia, una vivenza della mia sorella, soprattutto dopo la desaparizione, e questo io racconto nel libro. Io parlo della mia vita, come ho potuto fare la mia vita dopo la desaparizione, parlo della vita della mia nonna e parlo della vita che io penso che mia sorella ha avuto dopo la desaparizione. E noi in Argentina siamo sempre nella lotta per la giustizia, perché questi assassini, questi militari assassini e il loro civili amici, complici, hanno la verità, loro sanno esattamente cosa che è rimasto, e non lo dico mai, hanno un patto di sangue. Allora per noi è impossibile vivere così, allora continuiamo questa nostra ricerca di verità, memoria e giustizia. E noi cerchiamo di aggiungere come amplificatore la voce di Radio Città Fujiko. Noi ti ringraziamo tantissimo, ti auguriamo il meglio, Daniel, e buona giornata, a presto. Buona giornata per voi, tante grazie. Daniel Tarlopolsky anche per essere in Italia. È una serie di presentazioni, Bettina Sina Parser, la storia intima del caso Tarlopolsky, di questa famiglia argentina di origine ebrea. Sarà protagonista in presentazione alla libreria Ubic di Via Ernerio venerdì 9 febbraio alle ore 18. Noi proseguiamo dopo lo stacco pubblicitario con un altro anticipo di presentazione, con la voce di Paola Saoncella della libreria Biblion. Parleremo del nuovo libro di Patrick Fogli, A chi appartiene la notte. A tra poco. attendere troppo dalle mattiniere, dai mattinieri, quindi grazie Carlotta per l'anticipazione anche della presentazione di Daniel Tarnopolsky, che hai co-condotto a un orario improbo per te, ma grazie anche a Paola Saoncella che abbiamo tirato giù dal letto, però questa volta con un piccolo sconto, cioè la presenza telefonica. Buongiorno Paola! Buongiorno William, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi ti abbiamo fatto un piccolo sconto, non dalle 8 in diretta ma dalle 8:35. Mezz'ora in più. Mezz'ora in più di sonno che è preziosa. È preziosa, eh? Intanto grazie per la partecipazione, ti ritroveremo magari già da mercoledì prossimo con le prime novità del 2018, che è un anno letterario un pochettino a rilento, può essere, Paola? Sì, diciamo la partenza a gennaio è sempre un pochino lento, sì, però qualcosa di interessante è uscito comunque, qualcosa di cui parlare sicuramente avremo. Certo, intanto cominciamo allora con una novità, di che si tratta? Ti parlo dell'ultimo libro di Patrick Fogli, che mancava già da un po' di tempo nel mercato editoriale, ha cambiato casa editrice, è tornato con un romanzo che tra l'altro è un po' diverso dalle sue ultime opere. Il libro si chiama A che appartiene la notte, Patrick Fogli, edito appunto da Baldini Castoldi, ed è quello che potrebbe essere in modo un po' generale classificato come un noir, anche se poi in realtà Patrick non ama essere incasellato in un genere, perché poi tocca tanti argomenti, però diciamo che quello che è la struttura narrativa e il ritmo è assolutamente quello di un noir. È un libro ambientato nell'Appennino reggiano, una zona che Patrick conosce molto bene perché ci vive, e che appunto parte con la morte di un giovane ragazzo che si butta dalla pietra di Bismantova, che è una formazione rocciosa abbastanza molto bella di giorno ma abbastanza spaventosa di notte, che si trova appunto in quella zona. Muore questo ragazzo e la madre, che non crede al suicidio, interpella una donna che è venuta a vivere lì da qualche anno, Irene, la protagonista del romanzo, chiedendole di indagare su questa vicenda. E Irene, che è una giornalista d'assalto, è stata una giornalista d'assalto un po' allo stile, se vogliamo semplificare, Milena Gabanelli, insomma una giornalista d'inchiesta, che però dopo un errore fatale, una notizia che poi si è rivelata falsa, si è un po' rovinata la carriera, si è ritirata su queste montagne nella casa dei genitori e prende in mano questa indagine. Da qui parte tutto il romanzo. Vado avanti, hai qualche domanda da porre? Ti volevo presentare Carlotta. Salve. Molto volentieri. Vuole farti una domanda? Certo, volentieri. Volevo sapere in che modo questo romanzo è differente a livello di scelta narrativa rispetto ai precedenti. Dunque, Patrick Fogli, a parte i primi due o tre romanzi in cui è partito con proprio un giallo classico thriller, negli ultimi libri ha sempre affrontato delle tematiche di estrema attualità, anche riferendosi a casi reali. Lui ha scritto Il tempo infranto, che comunque si legava alla strage di Bologna, il libro successivo, di cui adesso mi sfugge il nome, comunque legato alla strage Falcone e Borsellino, il suo ultimo libro era comunque legato al terrorismo internazionale, quindi faceva un ampio riferimento alle stragi avvenute in Francia, Charlie Hebdo, eccetera. Questo invece torna a una storia diciamo che non si collega a uno specifico fatto reale, anche se poi è intriso assolutamente di modernità. Diciamo che la storia è la struttura è assolutamente inventata, anche se poi tutto il romanzo gioca sul binomio realtà-finzione, verità-finzione, ed è proprio questo il tema del romanzo. Certo, tu hai tempo di restare con noi per uno stacco musicale, poi rientriamo perché parliamo di Biblion e della presentazione di questa sera, chi ci sarà, chi dialoga con l'autore, tutte le domande di rito anche per l'appuntamento, no, di questa sera. Puoi restare un po' con noi. Molto volentieri. Beh, faccio ascoltare Impression, ripresa però questa volta da Stanley Tarantin. A tra poco con Paola Saoncella, Carlotta Calarese, William Piana, al Voltiamo Pagina. Cosa è andato a scomodare la nostra Paola Saoncella con la pietra di Bismantova? La pietra di Bismantova è questa formazione rocciosa che vi è tra il territorio di Castelnuovo dei Monti, proprio in cima all'Appennino Reggiano, nel passo del Cerreto. Una conformazione stranissima che tra l'altro si dice protagonista di tanti suicidi, di ragazzi che si ritrovano proprio all'apice di questo fronte, un frontone che dà strapiombo nel vuoto e purtroppo nefasto, per quanto affascinante, protagonista di tanti suicidi. Si tratta di questo, Paola, no? Della zona che ho citato in precedenza, e soprattutto non è certamente uno il caso di suicidio di termine vita, per quanto riguarda soprattutto persone giovani che vanno lì. È un posto un po' misterioso, stregato, la pietra di Bismantova. Sì, infatti ci sono, e credo anche che da tante leggende, comunque da tante storie legate a questa formazione molto particolare, Patrick abbia tratto anche ispirazione per il suo libro. Infatti poi la pietra avrà un ruolo all'interno del romanzo piuttosto importante, insomma, un libro